Piazza 24, i gialli della storia. In quel periodo c'era un grosso accanimento da parte delle forze dell'ordine, in particolar modo del dottor Castaran e Montana, appunto nella ricerca ai latitanti. Si entrava nella logica, nell'intelligenza di Cosa Nostra, che poliziotti validissimi, che non sono avvicinabili, si devono eliminare. Perché passeranno decenni fino a che possono essere sostituiti dalla stessa validità e quindi dare fastidio a Cosa Nostra. Era un omicidio veramente importante per Cosa Nostra, perché era il dottor Cassarà era un validissimo funzionario, un validissimo investigatore, era una persona temutissima dall'organizzazione. Un uomo temutissimo dall'organizzazione. Questo, nelle parole di Francesco Marino Mannoia, uno dei principali pentiti di mafia, era il commissario di polizia Antonio Cassarà, per tutti Ninni. Un protagonista della Palermo di fuoco dei primi anni Ottanta, un investigatore moderno e sfrontato, irriducibile nell'opporsi alla rassegnazione. La mafia lo uccide il 6 agosto dell'85 sul portone di casa, insieme all'agente Roberto Antiochia. È un omicidio eccellente, nel pieno della mattanza della guerra di mafia. Prima di lui sono caduti Boris Giuliano, i giudici Costa, Terranova, Chinnici, il presidente della regione Piersanti Mattarella, Pio La Torre e subito dopo il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Oggi a Mix24 vogliamo raccontare la storia di Ninni Cassarà, delle sue indagini, di una lotta contro un nemico che sembrava inafferrabile e invincibile. Per raccontare questa storia avremo le testimonianze dei giornalisti Francesco Lalicata, Antonio Calabrò, del caposquadra dell'omicidio Francesco Accordino e del magistrato Giuseppe Ayala. Lui fu messo a dirigere la sezione investigativa della squadra mobile, che era in pratica l'antimafia di quell'ufficio, ed era un ufficio anche abbastanza nuovo, perché prima la mobile di Palermo non aveva mai avuto una squadra che si occupasse esclusivamente di mafia. Quella squadra di Ninni Cassarà era sostanzialmente una squadra di volontari, perché reclutava tutti quelli che non avevano mezzi termini, tutti quelli che non avevano paura di continuare a indagare, ma soprattutto reclutava quelli che lui sapeva essere, come dire, puliti e disposti a correre qualche rischio. La squadra mobile di Palermo era soprannominata l'avamposto degli uomini perduti. Era veramente un piccolo fortino all'interno del quale noi vivevamo quasi assediati. La povera polizia non aveva manco le macchine per inseguire gli spacciatori, gli assassini, i ladri. Aveva le Giuliette, queste Giuliette scassate. Non aveva un computer. Fu costretto a partecipare a un concorso dell'American Express che regalava un computer a chi riusciva a proporre nuovi clienti. Lui si impegnò a trovare tanti clienti e riuscì alla fine ad avere un computer. Comprammo pure due Vespe, una lui e una io, e ci sfottavamo a vicenda dicendo che erano delle Vespe blindate, con cui lui camminava nelle strade di Brancaccio o Ciaculli con Calogero Zucchetto dietro. Calogero Zucchetto era un altro volontario. Un giorno tenevano sotto osservazione un casolare in quella campagna, ma Ninni e Zucchetto furono visti da Pino Greco, che attraversava la stessa stradina in macchina. Ora, Pino Greco era un killer che aveva ammazzato più di 100 persone. I due lo videro, si videro e si guardarono. Un paio di settimane dopo, Calogero Zucchetto fu ucciso alla vigilia del proprio matrimonio. mi ricordo che Ninni soffrì molto per quell'assassinio e in qualche modo si sentì colpevole o responsabile della morte di Calogero Zucchetto. Calogero Zucchetto viene ucciso nel pieno centro di Palermo il 14 novembre dell'82 per Cassarà. È il primo amico e collaboratore a cadere sotto i colpi di Cosa Nostra. Eppure Cassarà non si dà per vinto, anzi quell'omicidio rafforza la sua determinazione nelle indagini e nella lotta alla mafia. Una sera, a fine lavoro, un po' scherzando, mi si dice: perché non hai pensato mai a fare il concorso in magistratura? Perché oggi hai affrontato due o tre questioni, vedo che hai anche un taglio, dico, giuridico e quindi una preparazione devo supporre adeguata. Lui mi ha detto: la domanda è legittima, io faccio il mio mestiere perché mi piace fare lo sbirro. Era la negazione della cautela, cioè per lui non esistevano cautele, se le cose andavano fatte e le faceva, però non era irresponsabilità, capito? Era coraggio proprio, e tutta la sua vita è stata così. Non è che era un atteggiamento, tutti i suoi gesti poi alla fine hanno finito per costituire una somma che lo ha portato a morire. Una volta trasferito a Palermo dopo un difficile periodo a Trapani, si apre per Cassarà una nuova stagione di indagini. Alla procura di Palermo sta nascendo il pool antimafia voluto dal giudice istruttore Rocco Chinnici, uno strumento moderno e innovativo per affrontare la lotta a Cosa Nostra. E Cassarà diventa subito uno degli uomini più fidati di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nell'81, il 23 aprile, proprio c'è una data precisa, scoppiò la famosa guerra di mafia. E Cassarà mi chiamò per una segnalazione di omicidio. Alle 11 avevano ucciso in via Brunelleschi Bontade, che stava per salire su un'autovettura blindata ed era latitante. Quell'omicidio fu una delle prime avvisaglie della seconda grande guerra di mafia, che vedeva i corleonesi che salivano al potere e che cominciavano ad eliminare uno alla volta tutti i rappresentanti delle famiglie mafiose palermitane. Io ricordo per esempio in 24 ore anche 6 omicidi in 6 posti diversi dalla città. C'è una cosa che a ricordarla fa sempre una grande impressione, ma noi ci vivevamo in mezzo in quella realtà. La guerra di mafia ha fatto più di 1000 morti e più di altrettanti scomparsi. Noi venivamo da una condizione nella quale della mafia molto non si sapeva, diciamolo con franchezza. Anche l'approccio giudiziario era stato abbastanza fallimentare, pochi processi e spesso finiti con assoluzioni. Quindi una consapevolezza del fenomeno, una conoscenza soprattutto di questa organizzazione non era patrimonio di nessuno. In quel momento non c'era una legge che potesse garantire qualcosa ai collaboratori di giustizia, quindi giocoforza dovevano mettersi nelle mani di questi investigatori che li gestivano. E Falcone e Ninni furono in quel momento gli unici a fare breccia sulla diffidenza soprattutto che regola la vita di queste persone. Fra Contorno e anche dopo con Buscetta, con noi, con Cassarà soprattutto, e anche dopo con Falcone, si creò un rapporto di reciproco rispetto, di parola data, perché Cassarà era molto puntiglioso e rispettava quello che prometteva. Il rapporto tra Ninni e Cassarà, i primissimi confidenti all'interno di Cosa Nostra, è un rapporto decisivo per cominciare a squarciare il velo di omertà intorno alla mafia e soprattutto per cominciare a capire come funziona l'organizzazione. Anche grazie al cosiddetto rapporto dei 162 stilato da Cassarà e dai carabinieri, Falcone e Borsellino possono istruire quello che sarà il primo maxi processo alla mafia. Intanto Cosa Nostra alza il tiro. Il 29 luglio dell'83 un'autobomba uccide il giudice Rocco Chinnici. È la prima volta che la mafia usa una tecnica così spettacolare e micidiale. Un anno più tardi Ninni Cassarà viene chiamato a deporre il processo per la morte del magistrato, ma la sua deposizione rischia di trasformarsi in un boomerang. Al processo Chinnici Ninni andò a testimoniare e disse che aveva avuto notizie, assicurazioni da parte del consigliere istruttore, appunto, che era Rocco Chinnici, della sua volontà di spiccare un mandato di cattura per Nino e Ignazio Salvo, che erano i famosi esattori di Palermo, amici di Andreotti e riconosciuti intoccabili. Questa è una cosa vera, vera, ma non completamente vera, nel senso che sull'arresto di Salvo si concretizzarono due scuole di pensiero. L'idea di Giovanni Falcone era quella di trovare per toccarli prove inconfutabili. Da questo punto di vista, nel dibattito all'interno del pool antimafia c'erano opinioni divergenti. Ninni era convinto che quei riscontri di prova ci fossero. Giovanni Falcone aspettava di averne di più soliti. A proposito dei cugini Salvo, è successo questo in quegli anni. Noi avevamo una intercettazione telefonica, avevamo una serie di rapporti di polizia giudiziaria, di elementi, ma diciamo non assolutamente idonei a emettere un provvedimento di cattura. Poi arrivò questa intercettazione, che erano tre o quattro intercettazioni per la verità, per dire brevemente, erano intercettazioni telefoniche tra un'utenza di Palermo in uso a Ignazio Salvo, questo ci risultava, e un'utenza milanese in uso ad un noto commercialista. Chi chiamava da Palermo, dall'utenza in uso a Ignazio Salvo, usava il nome di Giuseppe, lo ricordo perfettamente, e chiedeva a questo commercialista di adoperarsi per fargli avere il recapito in Brasile di Roberto. Chi era Roberto? Era Tommaso Buscetta, ai tempi ben lontano dal ruolo di collaboratore di giustizia. Era un mafioso importante che viveva in Brasile. Da Giuseppe era Ignazio Salvo. La guerra di mafia era scoppiata da poco. Come non ne capivamo granché noi, non ne capivano neanche i Salvo granché delle logiche che l'avevano determinata. Allora è probabile che il Giuseppe, chiamiamolo ancora così, cercasse Buscetta per o invitarlo a venire in Italia con la sua autorevolezza e con la sua, come dire, con il suo ruolo all'interno dell'organizzazione, di mediare, di capire quantomeno. Allora decidemmo di indiziare Ignazio Salvo di associazione a delinquere di stampo mafioso per poterlo interrogare. A quel punto si era deciso di fare un mandato di cattura a Salvo. Falcone ed io eravamo contrarissimi e rivendico ancora oggi questa contrarietà, perché non c'era un impianto indiziario adeguato. La deposizione al processo Chinnici venne presa, interpretata come il tentativo di forzare, il tentativo di voler forzare una situazione. Dopo la deposizione di Cassarà, altri lo smentiscono. Poi però Borsellino conferma la versione di Ninni Cassarà, in qualche modo facendola anche uscire da quell'isolamento in cui era piombato. Lui si ritrovò improvvisamente nell'occhio del ciclone. Io seguivo in quel momento il processo Chinnici e raccolse la sua amarezza per il fatto che lui era convinto di avere detto una cosa vera e però era stato lui alla fine messo sotto accusa. 8 mesi dopo la deposizione di Cassarà, Giovanni Falcone chiede e ottiene un mandato d'arresto per i cugini Salvo. Intanto la fuga in avanti di Cassarà lo espone e finisce inevitabilmente per isolarlo. E a Palermo niente è più pericoloso che essere isolati. Intanto la mafia è sempre più vicina a Ninni Cassarà. Questa volta nel mirino c'è uno dei suoi amici e colleghi più stretti, il commissario Beppe Montana. Il rapporto che c'era fra Beppe Montana e Ninni Cassarà era un rapporto fraterno. Beppe Montana veniva da Catania. Non aveva famiglia qua, era scapolo. Mangiava o andava a trovare dopo cena Cassarà e stava con la sua famiglia e con lui in maniera veramente da fratelli. È stato assassinato a Palermo un giovane commissario di polizia impegnato in prima persona nella cattura dei mafiosi ricercati. Era stato seguito, spiato, pedinato per ore prima di essere assassinato il commissario Giuseppe Montana. 4 colpi di una 357 Magnum e di una calibro 38 con proiettili ad espansione l'hanno raggiunto al volto, devastandolo, mentre a tarda sera, appena sceso dal suo motoscafo, gli sci d'acqua ancora sotto braccio, si accingeva a raggiungere la fidanzata e gli amici. Lo sfondo del delitto, la baia di Porticello, località di vacanza a pochi chilometri da Palermo. I sicari, acquattati fra le barche, nell'ombra, hanno sgozzato il cane del guardiano della darsena che con i suoi latrati minacciava di far saltare il piano criminale. Ricordo il suo corpo disteso per terra, nella rimessa delle barche, coperto un lenzuolo bianco in un lago di sangue. E ricordo la faccia di Ninni e ricordo la faccia di Giovanni Falcone. La sensazione è che con la morte di Montana si fosse molto alzato il tiro. Era chiaro a tutti che l'assassino di Beppe Montana era un messaggio a Ninni Cassarà e che il prossimo sarebbe stato lui. Ninni Cassarà ha capito perfettamente che il prossimo sarà lui e lo confida a Paolo Borsellino, che lo ricorda nell'ultima intervista rilasciata prima di morire. Intanto quella dell'85 a Palermo è un'estate rovente, vissuta con i nervi a fior di pelle. 4 giorni dopo l'omicidio di Beppe Montana, Cassarà e la sua squadra sono di nuovo in trincea. Muore Montana e succede una cosa brutta. Succede che le indagini sull'assassino di Montana si trasformano in un boomerang terribile per la squadra mobile e soprattutto per Ninni Cassarà, perché un giovane mafioso sospettato, più che sospettato di essere uno degli assassini di Montana, viene fermato, portato alla squadra mobile e interrogato in un modo tanto violento che ci lascia le penne e muore sotto l'interrogatorio. Tutto questo naturalmente creò un'atmosfera, ripeto, quasi da rivolta popolare, contro la polizia sicuramente. L'allora ministro, che era Scalfaro, rimuove tutti quelli che avevano preso parte, non solo il processo di indagine, il processo penale, ma c'è un rivolgimento totale all'interno della squadra mobile. Il clima si surriscaldò ulteriormente e questo fece da detonatore, da acceleratore, se vogliamo, della decisione di uccidere anche Ninni Cassarà. In una Palermo divisa e lacerata che contesta duramente la polizia e le forze dell'ordine, Ninni Cassarà è sempre più delegittimato e sempre più solo. La mafia, del resto, ha deciso da mesi. Quel commissario deve morire e questo è il momento ideale per colpirlo. Con lui nel mirino finisce anche l'agente Roberto Antiochi, a 23 anni. In servizio a Roma si è fatto trasferire a Palermo per stare vicino al suo commissario. È martedì 6 agosto dell'85. Così pentiti Francesco Paolo Anselmo e Calogero Gangi, gli esecutori materiali dell'omicidio, ricostruiranno durante i processi le fasi della preparazione dell'agguato. La prima volta che ho sentito parlare dell'uccisione del dottor Cassarà fu da Raffaele Gangi, che mentre andavamo a Fondo Pepitone mi disse che in commissione avevano preso la decisione di uccidere il Cassarà e il dottor Montana. Per quest'ultimo omicidio si dovevano interessare quelle di Ciaculla, mentre noi eravamo stati incaricati di fare quello di Cassarà. Iniziamo subito la fase di studio del luogo dove si doveva fare l'agguato, che venne individuato davanti all'abitazione del dottor Cassarà. Io, Nino Madonia ed altri, tra cui sicuramente Calogero Gancia e Franco Spina, cominciammo a entrare in uno stabile di via Croce Rossa, antistante l'abitazione del Cassarà. Decidemmo subito che si doveva sparare da una delle scale, ponendoci in tre diversi interpiani. Il problema era quello di trovare un luogo in cui nasconderci in attesa di ricevere la battuta dell'arrivo della vittima. Non la so dire circa i motivi che ci fecero scegliere il giorno 6 agosto per fare la strage. Quel giorno, il 6 agosto, Ninni Cassarà comunica, sappiamo dal processo, a qualcuno delle persone che gli stanno vicino che al pomeriggio o comunque a ora di pranzo ritornerà a casa. Poi continua a capofitto nelle sue attività. Poco dopo, le 14.30, telefona alla moglie, dice sto arrivando. Dalla telefonata a casa in poi passano, se i miei ricordi sono esatti, non più di 10-15 minuti. Quando Ninni esce per andare a casa dopo tre giorni che è fermo in questura e i killer sono ad aspettarlo davanti a casa, è probabile che qualcuno dalla questura avesse avvertito i killer che stavano in attesa. La storia delle talpe per me è un'esagerazione, nel senso che bastava pedinarli. La battuta non era assolutamente necessaria, perché si trovavano operative delle vedette che attraverso una rice trasmittente erano in grado di comunicare in tempo reale che la macchina stava arrivando. Una volta che ricevemmo dal De Trapani via radio la notizia che l'auto del Cassarà era passata, io, Anselmo e Madonia ci appostammo prontamente sui pianerottoli della vicina scala, rispettivamente negli interpiani a partire da quello tra il primo e il secondo. Fu io che ero giunto per primo alla postazione a cominciare a sparare sul Cassarà non appena lo ebbi a tiro. E credo anche di essere stato quello che esplose il colpo mortale. Colpendolo alla fine solo con un colpo fatale, un colpo letale, che gli spezzò l'aorta. E lui cercava di rifugiarsi, correva cercando di rifugiarsi verso l'interno dell'androne, mentre Laura dal balcone del suo appartamento, con in braccio la bambina, bussava invano nelle porte di tutti gli appartamenti sotto, man mano che scendeva precipitosamente le scale, per dare la bambina a qualcuno e scendere verso il suo marito che trovò morto. Hello darkness my old friend. I've come to talk. Stavo al giornale e avevo accesa, come sempre, sulla mia scrivania di caporedattore la radio collegata con la radio della polizia, cosa che avevamo in tutti i giornali. E sento gli spezzoni di frase, me li ricordo ancora, sento dire via Croce Rossa, un Alfa Romeo, l'elicottero, e capisco che il morto è Ninni. Per cui con un paio di colleghi che erano in redazione con me in quel momento, corriamo verso via Croce Rossa, sapendo esattamente che cosa avremmo trovato. Per noi la squadra mobile e quello che facevamo non era un lavoro, era tutta la nostra vita. Ecco perché il mondo è caduto in quel momento con la morte di Cassarà. Io ho pensato che tutto era finito. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.